Buongiorno radioascoltatori, questo è Radio Antidoto, sono le 11:35 minuti sul cronometro e come preannunciato da diverso tempo siamo in compagnia di diverse persone quest'oggi. Io sono Vittor Cino, questo è io e la trasmissione più hip hop di Radio Antidoto, non d'Italia perché purtroppo ancora non sono sul radio DJ, ma è comunque un pezzettino di hip hop underground che si porta avanti. Insieme a me c'è Christian Del Padrone, che è la nuova seconda voce di questa trasmissione. Ciao Gri. E Buongiorno a tutti. soprattutto abbiamo un grande ospite per questa puntata, che abbiamo già annunciato su tutti i social, come fanno le radio importanti, ma è il fantastico Contagio da prima del 2020. Ciao Contagio. Ciao raga, fantastici anche voi e ben prima del 2020 anche voi raga, è un piacere esserci. Esattamente. Nasciamo nel 2020, nasciamo sotto il contagio vero e proprio del Covid-19, ma sappiamo che tu sei contagio da molto prima e contagi con la tua musica hip hop, come dicono i più anziani. Ebbene sì, la pandemia da Covid-19 è stata solo un misero tentativo di copia di quello che faccio da tanto tempo. Ci hanno provato i cinesi, hanno fatto anche un sacco di casino, però il contagio, quello un po' più serio, ve lo stiamo proponendo in questa puntata di Yo! Contagio, ci sentiamo subito un tuo pezzo per smorzare gli animi e capire di chi stiamo parlando con la sua musica, con le sue parole, con il suo modo di fare e poi passiamo a domande, domandine e domandone. Ah, yeah. Che ci consigli per cominciare? Ma guarda, io vi ho proposto qualche pezzo e mi sembrava che quello che ti avesse fatto impazzire maggiormente è quello che chiude il mio disco Mutazione del Virus, Va quindi bene, Highest Learning va sulla bene. produzione di Attarus che ha gestito le produzioni di tutto il disco e soprattutto Scratch di DJ Schizo, Leggenda. DJ Schizo più che leggenda, diciamo immortale. Ci sentiamo Highest Learning con un flow no flow che mi piace un sacco a me come concezione dell'ultima scuola hip hop. E ci sentiamo ciò che è stato fatto e che sempre sarà ricordato su un supporto magnetico, ma anche dal vivo. Andiamo con Highest Learning, il contagio DJ Schizo. Pensiero più alto, apprendimento sotto manto di basalto, fu tuo cauto e io lo tango, ballandolo, sentendo il dolo di chi a loro non per merito, a loro non poetico, a loro non do credito, ciò flusso è endemico, non me l'ha detto certo il medico, mi prendo il merito, cerco il marmorio, cerchio ermetico e lo centro, si spezza il carapace della pace, del sapere, ne contemplo la bellezza, purezza che è potere, non nella forma soggiogante che dà ere e deturpante il bene, non quel potere che perpetua catene, intendo un intento interno, primavera, estate, inverno, connessione tra me e me, prima che con l'esterno, le varie parti di me stesso allineati in assetto complesso, armonico gesto, dinamico estro, interpretare il reale mondo, realizzare figura e sfondo, in un intimo anelito d'immenso immerso nel profondo, vederci chiaro, più chiaro, il terzo occhio aperto un faro, forse il quarto, il quinto, il sesto, imparo presto ma ci ho messo tanto, stavolta è diverso, non ho rimpianto né pianto, ad adombrare l'adesso, l'assetto è stabile, al variare di ciascuna variabile ci sia, vorrei dirti che il confine è labile, mentirei cara mia, umile testimone alieno strano dell'ipertrofia del pensiero umano. Yeah. Oh yeah, Highest Learning, il contagio featuring Schizo, DJ Schizo. Contagio, io so tu essere, come dire, uno studioso della mente, uno studioso della sessualità, e ti è servito questo nel tuo percorso da rapper d'MC? Guarda, giustamente la definizione era tanto pomposa quanto corretta di mestiere. Nella mia vita vera sono psicologo e sessuologo, non apro quella parentesi perché questa è un'altra sede, però la risposta è decisamente sì, soprattutto la prima. Rendiamoci conto che scrivere una canzone, comunicare con delle persone, utilizzare la lingua italiana è comunicare e contagiare, passami il termine, delle Certo. persone. E quindi eccoci qui, sì, è un cerchio che si chiude all'interno di una persona che di mattina e pomeriggio si ritrova a fare il mestiere più bello del mondo, il secondo mestiere più vecchio del mondo, e di sera e notte si ritrova a fare il rap. E quindi queste due cose sono strettamente collegate, chiaramente. Ma anche nel processo creativo, per esempio, ti capita di utilizzare terminologia, utilizzare, siccome sono un vizioso del termine, sono un vizioso della parola, ho fatto studi classici e mi capita di inserire Weltanschauung e Jean-Blaman, tipologie di scrittura particolari nel mio rap. A te capita di mettere ciò che hai studiato, ciò che comunque lavori nel tuo rap? Guarda, per quanto riguarda il contenuto, come ti dicevo, chiaramente sì, perché noi siamo fatti dei nostri contenuti e quindi sia che li mettiamo nella professione, sia che li mettiamo nella produzione artistica, questo è un po' diverso per quanto riguarda proprio la questione lessicale. Il rischio è andare a riempire un testo di termini difficili per chi ascolta, dei termini specifici, e questo va a discapito della comunicatività. Della Quindi, fruizione. secondo me, esattamente, della fruizione della canzone. Il rischio quindi è che non possa arrivare. Credo che fare Chi è musica con le questo? parole, nello specifico mio, fare il rap, sia equilibrare queste due Chi parti è in una questo? maniera che sia comunicativa ma abbia un senso che è quello che io Chi è effettivamente voglio questo? inferire nel Chi è? pezzo. Abbiamo un ospite però, vedo. Abbiamo un ospite, un bambino molto simpatico, che sta chiedendo chi siete voi. Loro sono degli Ciao, amici di bambino papà. simpatico. Ti salutano. Ciao. Comunque, Ciao, bambino simpatico. Io sono un tizio che fa delle canzoni rap e abita nel profondo nord. noi nel profondo sud viviamo alle falde dell'impero. Alle famiglie dell'impero. Esatto. Ciao, bambino simpatico, è stato un piacere. Lui è Uma. Io direi ci sentiamo un pezzettino a cui io sono molto legato, che è appena uscito, perché noi facciamo anche grandi uscite, grandi classici, facciamo tutto. E poi ci spingiamo sull'americanazzo black, che ci piace tanto. Lei è Federa, che canta con Ugo Crepa, Nuova Scuola di Napoli, tutte e due. E questi astronauti da dedicare ognuno alla vostra signoria. Andiamo. Cerco invano il tuo sorriso tra la gente. Oggi che non mi vuoi più. Lasciato in un silenzio assordante, non ne vuoi parlare. Restiamo un'altra guerra. Siamo ad alta quota. Più mi allontano più ti sembro piccolo e non mi riconosci. Strade che ci uniscono sono un vicolo adesso per i miei occhi. E il cielo indaco, ricordi quando te lo indicavo. Profumi dell'indica, prima che avessimo litigato. Profumi di libertà, ma sei gabbia, secondine. Voglio un'ora d'aria tutta la vita, cioè mi ammazzo se continua così. E ti ho detto sto partendo, che fai vieni. E tu con la scusa del casco e poi gli alieni. E il cane rimane da solo in casa con il gas aperto. E cosa gli dico al lavoro? Tipo vengo e non avverto. E metto al centro te, che da sempre sei marginale. Ma ho sbagliato io che ci ho provato ad immaginare com'è. Come due astronauti. Sei tipo Louis Armstrong. No, no, spera, Neil Armstrong. Loro erano Federa e Ugo Crepa con Astronauti, Spaceman. E il pezzo è uscito ieri insieme a tutto l'album di Federa e devo dire tanta roba da Napoli, che ci regala spesso un sacco di roba interessante. Contagio, tu a contaminazioni come sei messo? Perché qui sentiamo un sacco di arabo, un sacco di non so, Space Oddity di Jamiroquai, sentiamo un po' di cose strane in questa canzone. Tu a contaminazioni con il tuo nome che dovrebbe fare da Omen Omen, come sei messo? Guarda, fammi dire innanzitutto una cosa, che il pezzo io non l'avevo mai sentito prima e mi è piaciuto un sacco. Dai. In questi ultimi anni sono sempre più attratto dalla dimensione melodica della musica e quindi tanta roba per questa ragazza qui, che secondo me ha fatto delle parti proprio belle, belle, belle. Forte anche l'MC, come mi facevi notare a bordo campo. E quindi questo volevo dirlo, perché mi sono gustato il pezzo che abbiamo appena sentito. Io a contaminazioni, guarda, credo che la contaminazione sia parte integrante di questa cosa chiamata hip hop, questa cosa più grande di noi che in qualche modo negli anni stiamo cercando di capire. Nasce come contaminazioni, va avanti come contaminazioni, quindi mi sono ritrovato nella vita felicemente a rappare in contesti in cui ero l'unico di lingua italiana, erano tutti senegalesi, non capivo un cazzo, ma mi sfidavo in una metrica e un sound veramente potente, così come cercare di fare altre cose. Magari mi viene in mente, anni fa avevo fatto un po' da MC ai Mother Inc, che sono un collettivo drum and bass molto noto qui dalle mie parti a Lecco, che va avanti da una vita, ormai hanno una certa età, anche se io vorrei parlare perché mi sto sbiancando pure io. Rimane che anche quella dimensione mi era piaciuta parecchio. L'emceeing nella drum and bass è tutt'altra cosa rispetto a quello che faccio. Adesso mi sto discostando ulteriormente da quelle ritmiche. Rimane che contaminare è tutto, raga. Sì, poi sono non d'accordo. Deve essere, secondo me, neanche un velleitario aggiungere qualcosa. Farlo per farlo non significa un cazzo. Esatto. Però la contaminazione deve essere sicuramente un'idea di partenza, cioè io non sono iniziato e finito come artista, ma posso, così come posso contagiare là fuori, posso essere contagiato da parte di altri musicisti e generare del nuovo. Esattamente, io la penso molto simile a te, perché mi capita spesso di fermarmi in piazza con i ragazzi Gambia, o altri paesi, e Sierra Leone. C'è un mio caro amico della Sierra Leone con cui ci spartivamo il pane quando abitavo più in centro, che è vicino a casa sua, e veramente eravamo una famiglia. Lui veniva a casa mia, chiamava mio padre papi e mia madre mami, e mi ha insegnato un sacco di cose, mi ha insegnato una valanga di cose, proprio a caterba, come le comiche cadono a valanga, direbbe DJ Graff. A proposito di cadono a valanga come le comiche, no, vabbè, quello facciamo un passaggio dopo. Ora ci sentiamo un tuo pezzo. Ci sentiamo il viaggio che hanno dovuto affrontare questi ragazzi, per esempio, che hanno dovuto affrontare dall'Africa, ma che affrontano anche dall'Afghanistan o da altre parti del mondo. E Contagio, lo vuoi presentare? Sì, guarda, allora questo pezzo mi soddisfa particolarmente, ecco perché è uno di quelli che vi ho mandato. Il concetto del viaggio in questo pezzo è ben più generale, anche se tu ti sei riferito a quello specifico viaggio, quindi di chi cerca fortuna, giustamente perché è suo diritto farlo, attraversando mezzo pianeta. Per quanto riguarda quel tipo di viaggio, ho fatto un pezzo anni fa con un grande artista che si chiama Cabo, un grande MC. Il mio producer Nico Fuz e la corista Giulia Onda, si chiama Fonti Vitali, e se qualcuno sta ascoltando le mie parole, se lo vuole appuntare, può andare a sentirselo per quanto riguarda quello che abbiamo detto su quell'altro viaggio, quindi i viaggi che raccontavi tu, i viaggi per cercare una vita migliore e la dignità. Nello specifico il viaggio, questo pezzo, è quindi si occupa di un viaggio forse più interiore, un viaggio più esistenziale. Ho avuto il privilegio e l'onore di avere il beat di Fast Cut, che è uno dei producer italiani che stimo di più in questo momento, Scuola Vera Roma, grande. E synth e chitarra sono di Farraz, che è Stefano Fumagalli, che non è nient'altro che l'uomo dello studio in cui vado a lavorare soprattutto per quanto riguarda mix e mastering. Ho parlato fin troppo, il viaggio ve lo sentite e poi mi dite voi. Fumagalli di chiara estrazione sicula. Vabbè, No, guarda, questo è puramente lecchese, però anche qui certo, contaminato. Fumagalli di dove deve essere? Di Avola. Dai, ci Eh sentiamo no, il no, no, viaggio. chiaro. Contagio, Chiaro, chiaro. Farraz e Fascat. Dai. Se non è un viaggio non ha senso, il vero assenso a questo è perderci in mezzo, da che sei desto, fino all'arrivo in cui ti scopri diverso, dal primo passo fino a questo testo, da dire parto a dire cresco. Che sia disteso nello spazio, che sia astratto, che sia uno strazio, una vittoria a caro prezzo, un patto, un atto di fede, un fatto di sete, un guasto di rete, un pasto di prede, la presa non cede, abbraccio lo scibile del tutto con l'intelletto, il peso del presente, lo soppeso con mani e affetto, amo di getto ma rifletto, è il solo modo che è possibile, ho un fusibile al posto del petto, fa scatto al beat, poi de dai là, questa va, ai viaggiatori fermi in città. Scioccati da ciò che era e mai più sarà, l'aldilà nell'aldiqua, estasiati dal divenire della realtà. Se non è un viaggio, non ha senso, lo capisco solo adesso. Seguendo il viaggio, mi sono perso, sono completo solo adesso. Se non è un viaggio, non ha senso, lo capisco solo adesso. Seguendo il viaggio, mi sono perso, sono completo solo adesso. Ok, io vorrei puntare il dito su tre cose. Cioè, i testi spaccano, gli argomenti spaccano, e poi con dei musicisti così, che cazzo vuoi fare? Nel senso, fortissimi. Ma Complimenti. sono contento che sia piaciuto questo livello. Stefano Farraz è un musicista incredibile, non so quanti strumenti sappia suonare, lui è veramente un musicista. Io ho solo rubato la voce alla genetica e l'inventiva a qualcun altro. No, vabbè, scherzi a parte. Lui fa un gran lavoro, Fascatta ha fatto un gran lavoro. Sono felice che piacciono i testi, piace il rap, visto che di questo mi occupo, e ultimamente sto proprio cercando di dare una spinta in quella direzione. Anche fuori dalla questione musicale, ma bensì sulla carta stampata, in un periodo del genere. Cioè, ci interessa. Spiega questa cosa della carta stampata. Pazzesco, Ci interessa, sì, d'altra parte ho fatto un grandissimo gancio radiofonico che fra un po' mi assumere. a cluster vai ormai pure nella vita. Vuoi, se vuoi, la settimana prossima sono la terza voce della puntata dopo questo gancio. No, sostanzialmente la risata la spiego per le centinaia di migliaia di persone del pubblico a casa che non sanno che in una precedente chiacchierata ti spiegavo appunto che ultimamente mi sono trovato a sistematizzare cose scritte in passato e scriverne di nuove, però in un orizzonte diverso, quindi quello della poesia puramente. Senza l'ausilio della parola detta, ovvero sto concludendo i lavori di una raccolta di poesie e soprattutto di poesie haiku, quindi questo stile brevissimo sintetico giapponese del 1600-1700. Nipponico. Prego, scusa, non ti ho sentito. Nipponico. Nipponico, nipponico, ebbene sì. Ed è un qualcosa che mi affascina terribilmente perché dopo tanti anni a fare il rap, quindi con questa scrittura ipertrofica, all'interno di questa ipertrofia mettere dei fenomeni di suono e quant'altro, l'haiku è l'esatto opposto. Cinque versi, pardon, cinque sillabe, sette sillabe, cinque sillabe, tre versi, pam. Un lapidario osservare e notare e mettere su carta la realtà. Lo trovo una sfida che si fa a pugni di parole. Il resto poi sono poesie invece più, con uno stile più, forse più riconducibile a quello del rap, però quasi esclusivamente senza le rime, proprio perché volevo uscire dalla componente della rima, Dal del loop. fenomeno di suono nel rap, e dedicarmi a qualcos'altro. Ecco tutto, sto esplorando anche la parola su carta stampata e sembra proprio che prossimamente qualche sfortunato tra di voi riuscirà anche a leggere questa carta stampata. Molto figo anche l'alternanza haiku, poesia, aprimi delle virgolette, tradizionale. Cioè, riesce a mettere insieme più cose e questo è sempre un bene, secondo me, anche più stili a proposito di contaminazioni, a proposito di variegare il plafond di conoscenza, di metodologia che si usa per produrre qualcosa, non un prodotto da industria culturale, ma un prodotto puramente che viene dal cuore, puramente emozionale. E come questo prodotto emozionale di cui parliamo, è per me un'emozione passare ora un pezzo di Moschella, che è un mio grande amico con cui ci vediamo tutti i giorni in tribunale, cioè tutti i giorni spesso in tribunale, che oltre a fare l'avvocato fa anche l'MC, cioè che fare oltre l'MC fa anche l'avvocato, dovrei dire meglio. Eccola, stavo per correggerti, ma non ho voluto fare perché non conosco la persona di cui parliamo, ma No, immagino no. di intuire la sua modalità di vita. Veramente uno in canna. E sul beat di DJ QVP, che ha fatto uscire un album proprio in questi giorni, perché io vi porto pure le nuove uscite così ve le smazzo come se fossi in effa. E ha fatto Maledetta città, benedetta città, che è una cosa in cui io mi ci ritrovo, perché spesso scappo per andare nella campagna per stare un po' da solo, per ricaricare le batterie. Però mi piace anche la città, mi piace stare qua, mi piace stare con gli amici, mi piace tutto. Lui è Moskills, DJ QVP e Maledetta città, benedetta città. Outfit lo chiamano oggi e parlano nuovi slang. I raga addossano sempre più occhi tecnologici e indiscreti, sanno tutto fra obblighi e divieti. Se li infrangi col tuo gruppo fra, in tasca c'è una spia che agisce in maniera subdola. Sì, soprattutto qua nel buco di culo di Google Maps. Ma qualcuno sta eludendo i controlli, sta scrivendo sopra il muro preferendo le fogli. Solidale con i migranti, con che dentro i tuoi folli. Resta abusivo come un festino salendo sui colli. La sua durezza a volte può far perdere la testa. Sotto i capelli ai fratelli quanti cervelli spezza. Con i suoi bordelli stressa, normale che uno pensa. Lascio la città ma la realtà è che non so farne senza. Maledetta città, benedetta città, sei la musa. Mi stai stretta, si sa, costa mentalità. Così chi maledetta città che la mente dei fra l'hai già fusa. Se ne andrei via di qua se il tuo rumore non fosse musa. Maledetta città, benedetta città, sei la musa. Mi stai stretta, si sa, costa mentalità. Così chi maledetta città che la mente dei fra l'hai già fusa. Se ne andrei via di qua se il tuo rumore non fosse musa. Ok, chiaro il concetto di quello che passa, a Messina e come ce la viviamo noi. Raccontaci un po' tu, Contagio, come te la vivi la tua city o il tuo hinterland o il posto in cui vivi, in cui i tuoi pieggi poggiano terra e puoi chiamare casa. Bellissima la domanda. Se non l'hai brevettata, la utilizzerò per qualcuno io. Prego, prego. Le parole sono gratis, lo sai. Ah, ok, bene. Fammela prendere alla lontana anche qui, perché questo pezzo, neanche questo pezzo lo sapevo, mai sentito prima, però abbiamo sentito, chi è che abbiamo sentito? Una persona Moschella che è sa. DJ QVP. No, era una pausa retorica la mia. Ok. Chi abbiamo sentito? Una persona che sa fare il rap, giusto? Certo. Volevo giusto far notare il mio parere. Guarda, bella Bam. storia, bella storia. Mi stanno piacendo i pezzi che passate, grandi, ma non avevo alcun dubbio perché il programma già lo sapevo. Raga, io vengo da Lecco, Lecco città di Lecco, terreno strettissimo, sottilissimo tra le montagne e il lago. Siamo la provincialotta di ogni cosa, ultimamente anche della Serie B italiana di calcio. Infatti io fra qualche ora vado a soffrire terribilmente, ma non ne parlo, non rilascio dichiarazioni perché potrei venir meno, proprio così, badabam. A Lecco la situazione è particolare, quindi ribadisco, provincialotti nel calcio, ma adesso torniamo a parlare di musica. Siamo a 50 km da Milano, se c'è una serata fica, vuoi fare una serata fica di musica o di arte, devi andare a Milano. Ogni tanto a Bergamo, che anche lì dista più o meno la stessa distanza. E E noi ci difendiamo bene. Abbiamo avuto per anni il nostro ciclo di eventi. Quando dico nostro, parlo di NDP Crew, il mio collettivo, Sì, con cui siamo l'ho rimasti letto da qualche attaccati. parte che è ripassato a NDP Crew con Tuck Records. Sì, no, aspetta, adesso torno un attimo indietro, poi mi riattacco a quello che stai Vai. dicendo tu. NDP Crew è il collettivo da cui ho iniziato, quindi i ragazzi con cui ho iniziato a suonare, rappare, fare. Per tanti anni portavamo avanti questo ciclo di eventi che però è stato interrotto a causa del Covid, anzi non del Covid, ma delle norme per contrastare il Covid, giusto per rendere l'idea. Quindi ultimamente siamo senza serate hip hop, in generale con poche proposte artistiche, ma credo che ci sia un bel fermento nella scena a livello di tanti generi musicali. Per quanto riguarda l'hip hop, qui sotto casa nel mio quartiere c'ho il giovane Duvan, che è un ragazzetto potentissimo, che ha un sacco di skills e di fotta, e quindi mi fa piacere citarvelo, ma c'è tanta gente cazzuta dalle nostre parti. Venite a vedere, venite ad ascoltare soprattutto. Certo è che subiamo l'assenza di cose, quindi di locali, di iniziative, di faccende. Noi Certo. siamo i montanari e i lacustri, siamo i campagnoli della proposta artistica, ecco. Vabbè, mica male, nel senso anche Bukowski era campagnolo, si è fatto le ossa. Bucolico, Bukowski era bucolico in questo, un po'. Bucoscolo, Bugoscolo, Ugo Bugoscolo. Una domanda. Vai, Gri. Esattamente. No, volevo chiedere da quant'è che fai questa roba? Guarda, da tanto, si vede il bianco qua, no? Diretta si vede il Capisce bianco nella che barba. se comunque non cerchi fama né soldi ed è una cosa rarissima, cioè porti avanti l'hip hop ed è una cosa che manca ai tempi di oggi, che tutta questa gente si vuole far vedere, si vuole far mettere in mostra e te comunque porti avanti questa passione senza così. Guarda, questo è effettivamente, ma sai qual è il segreto? Ho anni 37 e quindi se ad anni 37 non hai capito che questo sarà un bellissimo dopolavoro e non il tuo lavoro, è un problema. Io invece questo problema non ce l'ho, l'ho capito bene, ci perdo tante ore di sonno, come invece dimostra la modalità panda dell'occhiaia, perché io l'MC lo posso fare di sera e di notte, quando finisco di fare il mio dovere. Quindi no, fama assolutamente no, mi piace fare quello che faccio. La cosa bella, e talvolta lo metto proprio così, è un vanto non averne fatto un lavoro, non averne saputo, potuto farne un lavoro. Perché? Perché io potrò sempre fare la musica che mi piace, la cazzo di roba che mi piace, non altra. Mentre ci sono altre persone in questo momento che sono chiuse in studio con una voce fuori campo che gli dice: no, fammi una rima che citi la Meloni, no, rappa su questo che adesso vanno le batterie così piatte, no, fai così. Sono felice di non essere nei loro panni. Perché io già, come tantissimi altri italiani, tantissime altre persone nel mondo, dalla mattina al pomeriggio devo fare qualcosa che devo fare per mettere i soldi nel portafoglio, nella tasca destra. Quindi Certo, ma infatti sei vero. non cerco la fama, cerco di fare la musica che mi piace, cerco di scrivere le robe che mi piacciono. Mi fa piacerissimo che tu abbia notato questa cosa, Chris, sei un grande capo. Grande. E tra l'altro fai una cosa che poi non è il tuo lavoro, nel senso, il lavoro svilisce anche spesso quello che fai, e, mentre invece te la tieni come tua, come personale, come una cosa che ti appartiene in un certo senso, che sei tu, perché noi non siamo il lavoro che facciamo, siamo più cosa vogliamo essere, secondo me. Mi piace questo concetto. Noi non siamo il lavoro che facciamo. Ahimè, tantissime persone incontro là fuori che pensano di essere il lavoro che fanno. Conosco persone che si sono rovinate pezzi di vita, addirittura delle relazioni molto importanti per il lavoro. Perché io devo rendere al lavoro, devo fare. Certo, lavorare bene è serio, è professionale, è Certo, importante, certo. ma noi non siamo solo questo. Guarda, Certo. dimmi dove devo firmare sotto la tua frase, perché voglio firmare anch'io lì sotto. Sono È d'accordo. gratis, le parole sono gratis, ce le possiamo dividere, ce le possiamo dividere. Andiamo avanti. E allora, abbiamo diverse opzioni di continuazione di questa puntata. Quell'espressione o meditazione hardcore, contagio. Guarda, io metterei adesso quell'espressione, così torniamo un attimo sull'album che ho fatto vedere a quelli che sono in diretta, questo Mutazione del Virus di cui vi ho già parlato, e così rispondo anche in parte alla domanda, a quel pezzo che stavi dicendo. Stavi facendo un minimo di confusione, ma non è un problema, tra la mia crew e l'etichetta che ha stampato questo disco. Quindi questo è fuori, il contagio è Attacus, Mutazione del Virus, fuori per Skill to Deal Records, etichetta notissima di Milano che ha pubblicato un sacco di ficcate, tra cui già citati Alien Army e tantissime belle cose, Flycat, ecc. Alienarmi con l'ultimo album che ha spaccato tutto, veramente. Alien Army spacca tutto sempre e mi chiedo come possa essere umanamente possibile. Non ho ancora trovato la soluzione a questo. Assolutamente no. Sarà che si riempie di fresche forze di sovente ultimamente con l'entrata di, secondo me, devastante DJ Ghost di Pavia, ha raggiunto altri tipi di vette e di espressione sonora. Il lavoro di Schizo è quasi come creare e portare insieme, almeno dal mio punto di vista, uno squadrone come i Nomadi. Avete in mente i Nomadi che continuano È un in periodi recruiter. ogni anno, come gli Wailers, che cambiano gli elementi, cambiano le persone, ma rimane il È nocciolo. un Questa è la cosa recruiter. più che mi affascina. Cerca sempre il meglio dalla scena. È un recruiter che sa pescare i campioni come, che ne so, Hazard e questi qua pazzi. Questi tutti fusi. E ci sentiamo con l'espressione featuring Ape e ci andiamo un po' di testa. Aridaie. Non ha voglia di perdersi in fatti futili, vi lascia inutili, non conta gli utili e se conta compra il duty free. Va in posti inutili più volte al di tra stupidi, dal lunedì al venerdì pure le loro cozze, mitili. Conosce la tosse che spezza, non ha miti, non imita la massa, pensa, la stima monnezza. Signor Sisto cazzo, sua altezza. Signor Sisto cazzo, sua altezza. Ingaggia un testa a testa, spanda a sinistra a destra. Soffia fresca brezza sulla sua impresa. Mistral, vento di cambiamento, dove ci si sta dentro a stento. Escremento di sto mondo, brucerà rilento in eterno, ma non in vano. Redini in mano di un destino attualmente spento. Ha un piano, per il più insano, per di più umano. Mai contrito, munito di contorni, tornito. Cambierà il mondo con il sorriso, questione di giorni. Con l'espressione di chi non ha niente da perdere, niente. La stessa rabbia, diverso il movente. La stessa rabbia, diverso il movente. Con l'espressione di chi non ha niente da perdere, niente. La stessa rabbia, diverso il movente. La stessa rabbia, diverso il movente. Pugni sul muro, sangue alle nocche, fame troppe bocche, parole a vuoto, frasi sciocche, quasi filastrocche, lasciano intatte le apparenze, creano dipendenze, false credenze, qui si aggrappa chi non ha speranza. Lividi in faccia, piede sul cranio che schiaccia, reagisci, lascia una traccia che sia più forte di chi ti minaccia. È una battaglia quotidiana, non conto i feriti, se devo stendo rado al suolo non sopravvissuti. Voi siete benvenuti, se vi fate da parte, sto in primo piano, non mi serve averci le comparse. Protagonista punto il dito, non serve un invito, ma se mi guardo allo specchio vedo solo un fallito. Troppe persone che ho tradito per egocentrismo, troppe coscienze calpestate da un falso idealismo, intossicato dalla smania di protagonismo. Voi mi vorreste tutti morto usando un eufemismo. Con l'espressione di chi non ha niente da perdere, niente. La stessa rabbia, diverso il movente. La stessa rabbia, diverso il movente. Con l'espressione di chi non ha niente da perdere, niente. La stessa rabbia, diverso il movente. La stessa rabbia, diverso il movente. tanta roba, eh? Tanta roba. Raga, le chitarre sono sempre di Farraz, Stefano Fumagalli, che ho citato anche prima, perché è sempre un piacere fare la musica con lui, è un master. Grande. E Ape, spero che anche dalle vostre parti non abbia bisogno di presentazioni. Sì, è conosciuto Ape anche. Quindi si sa il verbo di Ape anche laggiù. Ape, no? Zampa, Mister Zampini. Esatto. Tutta gente potentissima. Io ho avuto la fortuna, il privilegio di conoscere Ape a un evento qui a Lecco organizzato da un ragazzo, Noccioman, un altro MC. Io avevo una piccolissima parte in quell'evento, dovevo fare giusto un po' di apertura. Ho avuto la fortuna di conoscere Ape, ci si è stimati reciprocamente la musica e io ero già super fan suo da quando ero pischello. Alto. Certo, alto. Anche io. Super privilegio poterlo avere sempre in mutazione del virus che vi dicevo, quindi andate ad accattarvelo in copia fisica o Spotify. C'è anche quel bell'uomo di Ape che sta godendo di una seconda giovinezza. Tra i suoi nuovi album, il suo nuovo ciclo di eventi, Ape in ottima salute e... Ci fa piacere. Tra me, non so chi è più bello, veramente. E... molto bello il pezzo, molto bello questo scambio, questo contagio, permettimi di fare un altro gancio radiofonico tra artisti, tra MC o artisti, perché anche il Fumagalli, ricordiamo, fa parte della cricca. La cricca dei Balordi, Bassi Maestro, e DJ, MC Supa, fortissimo, tu conosci? Ebbene sì, minchia incredibile. Io sono molto legato al rap sotto Roma e di Roma, e però rispetto tutti i rapper, cioè non c'è razzismo in questa cosa chiamata hip hop, non c'è... Ti puoi sentire più vicino o meno vicino per questioni... anche di, come dire, geografiche, però ti senti sempre vicino se qualcuno, anche se la merda mia, la merda tua, non c'è attinenza, come diceva primo Brown in Con la morte non si scherza. Però lasciamo, mi cade una lacrima, scusate, non posso continuare. Rest in peace, primo. Rap in power, primo. E... Ci sentiamo... Meditazione hardcore così velocissimi, visto che ci restano 14 minuti sul cronometro, quasi 13, e poi volevo fare pure un passaggio sull'americano, su Method Man e il Wu-Tang. Andiamo, dai. Dai. Yeah. Se non puoi andare fuori, vai dentro, all'interno di te, in assenza di tempo, dove lo spazio è causa e conseguenza di se stesso, dove spesso buio pesto, porta la luce, portala da reduce, poca e la paura si riduce di già, dico a me che sto piccando un fuoco al bosco, qui nel mio teschio, vedo più chiaro adesso. Fuori giorni fotocopie, ombre platoniche, dentro dolci cornucopie dedicate in una kiwake, sono e basta, arche. Contemplo e suono, e scogito una fuga dal tempio dell'uomo. Il mio abito è un kimono sulla pelle nuda di Neruda. Raggi uva, UVA nei miei occhi, unità negli intenti, come Graf viene e va. Meditazione al core, riflessi del crotalo. Non è torpore, è uno stato alterato. Meditazione al core, riflessi del crotalo. Non è torpore, è uno stato elevato. Meditazione al core, riflessi del crotalo. Non è torpore, è uno stato alterato. Meditazione al core, riflessi del crotalo. Non è torpore, è uno stato elevato. Le tiro dritte sull'acciaio, subito fraintendi. Con la rotta sui binari, no che non ci fermi. Vanigliato nell'odore, questo spray mi inebria. Chiudo a barrio nella plaza, manco fossi Big Pan. Molotov nelle mutande, terzo occhio aperto. Pietra, graffia, vetro, inferno nel pacchetto. Sento il caldo madre, terra sale da sto tunnel. Adrenalina in petto, pompa basso da subwoofer. Meditazione al core, fumi da peyote. Tag nella corrente, pirati a Lanzarote. Prima incatenate, recinzioni della yard. Rifaccio il trucco a sto convoglio, gli ripasso il fard. Cani di Berlino, sogno di Murad. Tira forte il freno, questa roba è back jam. Come Doc, visionario, torno dal futuro. medito sul battito, ci salga cazzo duro. Meditazione al core, riflessi del crotalo. Non è torpore, è uno stato alterato. Meditazione al core, riflessi del crotalo. Non è torpore, è uno stato elevato. Meditazione al core, riflessi del crotalo. Non è torpore, è uno stato alterato. Meditazione al core, riflessi del crotalo. Non è torpore, è uno stato elevato. Un riflesso chi si pigia in un buccione di vetro. Cura rugi chi pone i pulsi all'occincina di arinvesso. Tessu, lo fumo chi nell'aria si è perso. Se cuda ciappa mi canduara, fini mi petto. A fuoco ogni ammetto veo, pilloro più bello. Tretta rosa e vedo, ma girare in ferro. Mi intendo più tu, corpo di roccio e ferro. Amore di godo, in chi su yogo. Fatto di gioia e dolori, ma niente pane asciutto. A tutto, veo una soluzione. Meditazione ancora in lutto. Vide ficciaro, carrigo, cannona fiori, pacagliati muto. Io tira su lucerroni, tu rassami di cuglioni, che anda mazzino poco. A cavata di stradoni, vi una su fosso. Attenzione, li radizi sto crescendo e lo troppo è forte torso. A chi ripulsanti, e zappa bellosso. A chi ripulsanti, eia, e zappa bellosso. Meditazione al core, riflessi del crotalo. Non è torpore, è uno stato alterato. Meditazione al core, riflessi del crotalo. Non è torpore, è uno stato elevato. Meditazione al core, riflessi del crotalo. Non è torpore, è uno stato alterato. Meditazione al core, riflessi del crotalo. Non è torpore, è uno stato elevato. L'ultimo in sì è sordo, giusto? È sordo, ma con la... È esatto, esatto, sardo. Esatto. È super sardo. Senti, grande roba pure questa canzone. Mi hai consigliato di passare... Io di solito scelgo io le canzoni da passare dell'intervistato. Stavolta ho chiesto a te e devo dire che mi hai sorpreso positivamente. Cioè, ti ascolterò durante i miei cose folli che faccio. E avrò il tuo background, il tuo tappeto musicale ad accompagnarmi. Grazie. Un privilegio grande. Un privilegio essere nelle tue orecchie quando vorrai, ovviamente. Anche perché poi questa ultimamente sta spaccando, questa me la porto sempre dal vivo, anche se dal vivo non ho gli MC della collabo, che sono certo. Mister Seglio di Roma, che saluto, è anche plausibile che lui magari stia ascoltando questa puntata. Bello. E RD degli Stranos Elementos, che sono appunto talmente sordi da essere sardi. Esatto. E lui è veramente una personalità hardcore del nord dell'isola, impegnato socialmente per... togliere dalla povera Sardegna tutte quelle brutture a livello di inquinamento, di basi militari e quant'altro. Bello. Quindi massimo rispetto per quello che fa RD e tutto il suo collettivo. Produzione di Giambe, che io adoro. Giambe è un ragazzo sardo, anche lui, che vive a Londra, è uno dei tanti cervelli in fuga da questo paese, che mi manda delle mine colossali e stiamo facendo delle cose molto belle. Sia nella direzione che ti dicevo, che accennavo prima, più melodica, che sto prendendo ultimamente, sia nella direzione fottutamente hardcore che ho sempre avuto da quando sono nato 37 anni fa per uno strano caso del destino. Io questo volevo chiederti, cioè ho visto che c'è un bel fermento a Lecco, cioè te l'ho già fatta questa domanda, ma cioè, la scena mi sembra veramente potente, mi sembra veramente florida, non potente. Florida è più che potente, perché in potenza ha ancora di più, secondo me. Talmente florida da essere vicino a Miami. La finisco, te lo giuro. No, sì, grande. Il vantaggio è quello che ti dicevo prima. Siamo la provincialetta del campionato, come il Chievo-Verona di un po' di anni fa, che si vinceva le partite e nessuno sapeva ma è a Chievo o a Verona? Che cosa sta succedendo? Noi, quindi... fuori dalla metafora calcisticistica, ritorniamo ad essere, come ti dicevo prima, certo, quelli che... Oh, se non so cosa fare, vado a Lecco. Io direi, venite a Lecco, raga, che si sta bene a Lecco e abbiamo tante note da farvi sentire. Figo, molto figo. Io direi, se siete d'accordo, ragazzi, c'ho un mixato, un remix di James Brown featuring Method Man. Ce lo spariamo e ci salutiamo. Ciao. Bellissimo. Method Man è uno dei miei preferiti in assoluto, quindi io non hai capito. Non hai capito, cioè è una delle cose che preferisco ascoltarmi di tanto in tanto. È geniale. Jecha remix, It's a Man's World, James Brown featuring Method Man. Dai ragazzi, wow. Siamo sul finire, sul photo finish. Get off my dick now, get crap, hot style, you get style, style, timid, scared to get in it, these dogs is rock cloud, unchained, untamed, you know my name, act strange, pack flame, it's not a game, just ill flow, that kill shows you can feel, yo, kicking in your dough like a steel toe, for real though, y'all gon' learn, I spit germ, when you come short on big worm, you get burned, fuck don't get turned, they get done, and get sun, come get some, the last victim lie in a ditch, now who wanna fuck with hot neck, niggas chew gum with they ass and pop shit, being punk doc, get toxic, a bowl of rice with some chopstick, don't make your woo just as hot. bomba micidiale. Salutiamo Anzisco che ci si ascolta da Berlino e chiediamo al contagio. Contagio, per chiudere, progetti per il futuro? Guarda, progetti per il futuro sono l'unica certezza nella mia strana esistenza in questi tempi. Quindi, come vi dicevo, c'ho la questione puramente poetica, il libro se ne parlerà, ma difficilmente ancora su canali hip hop, perché credo che sia una cosa che farò con il nome e con il cognome, quindi okay, una cosa più staccata dal contagio. Vabbè, abbiamo anche un programma di poesia, se vuoi, lo apriamo solo per te. Volentieri, io lo chiuderò solo per voi. Stronzate a parte, poi c'è... ho alcune delle cose, alcune che non posso ahimè dire perché non sono del tutto concretizzate. Va bene. Ne parlavo poco fa. Quello che è già concretizzato è che sto per fare un EP che veramente solido, a mio avviso, con Nix, che è un mio fratellissimo, un MC di Sondrio qui vicino, con cui vado sempre in giro a suonare. Quando suoniamo siamo il contagio, Nix e DJ Menazone, il mio DJ. Quindi avremo questo EP che ha una serie di cose che mi piace particolarmente, ma non vi svelo niente. C'è qualche producer di quelli che abbiamo già parlato, il resto è mancia, vediamo. Poi ci sono questi singoli in dimensione più, come ti dicevo, melodica, forse anche il caso di dire più nostalgica, un po' più depre, a causa di eventi di vita recenti e meno recenti, mi sono ritrovato in una dimensione di quel tipo. Questi singoli stiamo lavorando e stiamo capendo come farli uscire, probabilmente con un'etichetta italiana, e anche lì avrò modo di farvi sapere. So solo che se volete vedere, sentire qualcosa di diverso, tipo il contagio che canta, sono quelli che fanno per voi, esattamente. Ok, quindi ci vediamo a Palermo, giusto? Sarebbe bellissimo, nel senso, se dovessi riuscire a venire a Palermo per soffrire a livello calcistico... Sarai l'unico a saperlo, perché se no, se lo sanno altri palermitani, poi mi tirano le pietre. Non vorrei mai, sai. Ma che bel faccino. Va bene. Grazie, contagio. È stato bellissimo. Vediamo di farla. Vediamo di farla, di farcela. Ti sento male, quindi non... le ultime parole non mi sono arrivate. Scusa. Grazie, contagio, sei stato bellissimo. Sei bellissimo. Okay. Quelle che dovevano arrivarmi non mi sono arrivate. Grazie a voi, raga. È stato un grandissimo piacere il vostro spazio. Vi ringrazio tantissimo. Mille di queste puntate. Grazie. Cri, siamo pronti a chiudere. Noi ci risentiamo su questi stessi teleschermi / frequenze. E grazie anche a te, Cri. Grazie a te, Vittorio. Grande, Cri. Dai, ci sentiamo presto. Belli siete. Ciao, Mario, un bacio. Ciao.